YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a Radio Tube, l'appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo e anche questa settimana il perdibile della settimana tra televisione, web TV, social TV, tutto quello che ha fatto scatenare il mondo del web. Non l'abbiamo più chiamato popolo della rete. Daniele, siamo stati bravi? Siamo stati bravi, come direbbe Vasco, siamo ancora qui e ci potete scrivere anche su Twitter. I nostri account @MartaCagnola, Marta sul Tube detta anche, @DiBellasio e soprattutto con l'hashtag cancelletto, come dice Marta, noi lo facciamo anche con le dita, ma voi non ci vedete, cancelletto Radio Tube. Lo facciamo, lo facciamo. Io questa settimana vorrei parlare di abbiamo in queste settimane parlato di un animale particolarmente famoso che è il gatto di Sandro Maier. Mai che dire salutiamo Maier, sempre. Che ormai salutiamo all'inizio sempre. All'inizio e alla fine lo salutiamo. Beh, Sandro Maier, straordinario, con questa sua nuova chioma, ormai soprannominata gatto, la rete adora i gatti, adora i gattini, ma questa settimana l'animale della settimana sì. Non è un gatto. Non dire gatto, ma dici cane. Dico cane, mi verrebbe parliamo anche... Parliamo di cani, parliamo purtroppo di una favola che non ha lieto fine. Una favola che ci aveva illuminato il cuore mesi fa, pensavamo che un cagnolino tecnico, eppure con cuore... avesse trovato una casa. Io vorrei tornare indietro. Almeno un professore. Almeno un professore, la casa, un professore. Avrebbe, pensavamo che avrebbe avuto una vita lunga e felice in compagnia. Ma magari ce l'ha avuta. Non chissà, chissà che fine ha fatto. Ma andiamo per ordine, andiamo a sentire l'inizio di questa favola triste qualche mese fa. E insomma, secondo me se lo riascoltiamo ce lo ricordiamo tutti. Si è fatto fotografare con un cagnolino. Lei sì. Sarebbe disposto ad adottare un cucciolo che noi le regaliamo? Questo... Dai, proviamo. Questo è un vile ricatto. Proviamo, io provo a mettermelo in braccio. Guardi che carino. Oddio, ma che meraviglia. Molto carino. È un cucciolo empatico. È un cucciolo empatico, che bei momenti. Infatti questo cucciolo empatico prese poi il nome di Empi. Bellino Empi, sì. Lui. Il professore non sa tanto ridere, si vede che non è una cosa che gli riesce facile. Faceva dei colpi sì. Di diaframma. Però proprio. C'è da dire che già allora aveva detto questo è un vile ricatto. Questo è un vile ricatto, però buon viso, cattivo gioco, si sbaciucchiò il cane, così la con quest'aria poco. La campagna elettorale fa miracoli. Esatto. Ma il cane con cui Berlusconi si era fatto fotografare, come dice Daria Bignardi, era già Dudu? Secondo me non era Dudu, dobbiamo andare a fare un fact checking. Un fact checking sul cane. Andiamo a cercare un po' di iconografia canina, ma torniamo. Sì, perché a Monti questa favola. Si è pentito. Diciamo. Si è pentito amaramente e in non maniera... di essere sceso in campo, non salito di essere in politica. Sceso in campo, salito in politica, ma di avere adottato un cane. Aveva detto vile ricatto. Sentiamo cosa ha detto questa settimana a Lucia Annunziata. Chi vi parla è colui, perché così si vuole coltivare la sua immagine, chi non mi ama, è colui che in uno studio televisivo, dottoressa Annunziata, si è trovato tra le braccia di sorpresa, poco corretta, ad opera di una sua collega, collega è dire molto, un cagnolino, e oggi c'è un'alta autorità dello Stato che fa spesso riferimenti nelle sue sagaci dichiarazioni a che fine avrà fatto il cagnolino di Monti, sarà svanito nel nulla come il centro. Quest'alta autorità dello Stato è un vicepresidente del Senato, Sì, è il senatore Gasparri. Lui si diverte molto con questo. Va bene. Presidente, sul Daria Bignardi, io vorrei difendere la mia collega amica Daria Bignardi. Era un modo per tirarla fuori. Le polemiche successive non riguardano quello che ha fatto la giornalista. Obiettivamente, su questo mi permetta una difesa un po' corporativa. Anche noi abbiamo, ma ci credo in quello che dico. Che malinconia. Sì, un po' di malinconia. Sai che due cose. Io trovo che Mondi sia televisivo. So che sto dicendo una cosa, forse sono l'unico in Italia a pensare una cosa del genere. Però nel suo dottoressa, nel suo modo di parlare, alla fine è televisivo. Mentre Daria Bignardi è stata straordinaria nella risposta su Twitter. Ha iniziato a salutare con Bau. Infatti salutiamo anche noi da oggi con Bau. Ma assolutamente, e poi soprattutto se Empi, che in realtà in origine doveva chiamarsi Trozzi, quindi già era stato Trozzi. Fortunato sì, a essere ribattezzato Empi, se non ha trovato casa lo portiamo ma qui a Radio Trozzi 24. Con Trozzi con l'Y, sì. Che tristezza, povero cagnolino. Quasi peggio di Dudù. Comunque non sappiamo dove sia. Quindi. No, io in realtà appunto vorrei capire un po' più che altro se sta bene, se è felice, perché aveva un cuore, a Monti piaceva evidentemente, e poi parliamo di questa straordinaria difesa della categoria di Lucia Annunziata. Di Lucia Annunziata, un po' mi ha stupito, però, però è stato questo. Però doveva, anche perché insomma la battuta del professore, chiamarla collega e dire troppo, quella è un po' eccessiva, obiettivamente, insomma, no? Secondo me è stato un po' cattivo una collega per così dire. Non so, per così dire. E soprattutto questo utilizzo della qualifica, dottoressa Annunziata. Straordinario, manteniamo e le poi distanze. Lui parla di sé in terza persona. Cioè io sono colui che in uno studio televisivo è tutto un po' complicato. Però secondo me rende abbastanza in televisione. Rende abbastanza? Ce lo vedrei a X Factor, così butto lì la cosa, perché io volevo fare tutta la trasmissione tutta su X Factor, sì, perché, abbiamo avuto la fortuna di un'inviata speciale lì. Guarda, straordinario, straordinario, poi ne parleremo abbondantemente. Tu preferiresti, se avessi un talk show, avere come ospite Mario Monti, che hai detto essere molto sì. televisivo, o Aldo Busi? No, ecco, io sono veramente un fan incredibile di Aldo Busi, perché Aldo Busi è, se Monti è televisivo, Aldo Busi è la televisione, pur facendo letteratura, tranne quando cita pezzi di suoi libri, che mi sembra un po' eccessivo. L'ho sentito una sera da Formigli farlo, mi sembra eccessivo. Te piace? A me piace abbastanza, soprattutto quando fa arrabbiare le politiche che se ne vanno, però mi pare che abbia messo un pochino la testa a posto. Ne parleremo tra poco, quando ci ritroviamo ancora con Radio Tube. YouTube. Ancora con Daniele Bellasio, ancora con Marta Cagnola, chiocciola di Bellasio, chiocciola Marta Cagnola per trovarci anche su Twitter, ancora appunto con RadioTube. Abbiamo parlato di Empi e poi abbiamo parlato anche di Dudù, abbiamo parlato insomma dei cani che hanno popolato la rete, cani nel senso di quelli veri a quattro zampe. Infatti in su questa Twitter settimana la chiamano l'età di Dudù. L'età di Dudù è bellissimo, l'età di Dudù, ci siamo chiesti se nel febbraio scorso era Dudù il cane con cui venne fotografato Silvio Berlusconi. Berlusconi, io me lo ricordavo un po' meno pelosetto, infatti era meno pelosetto, io ce l'ho davanti, la faccio vedere a Daniele, la mostro in radio. Mostri la foto di Berlusconi, no, che sbaciucchia la cagnolina Vittoria. Vittoria, era una Berlusconi. Cagnolina abbandonata su strada nei pressi di Palermo, che era stata donata dall'ex ministro Brambilla per ribadire l'impegno del Cagliari sul fronte animalista. Era la cagnolina, esatto. Vittoria, anche perché qua si dice che è ad Arcore, ma andrò a controllare se la cagnolina Vittoria si va d'accordo con Dudù. Ad Arcore, Dudù sta a Roma. Se va d'accordo con Dudù oppure se non si sono mai incontrati. Voltiamo pagina. Voltiamola. Anzi, torniamo alla riflessione che facevamo prima su Aldo Busi, ospite perfetto nel talk show politico, che non abbiamo ancora capito se è vivo o se è morto. Secondo me. Ne abbiamo un po' discusso, ne discuteremo ancora. Questa settimana abbiamo due certezze sul talk show politico. La gabbia ha parlato di Bilderberg, che è una certezza che i nostri telespettatori giusto vogliono sicuramente avere. Certezze nella vita. E Ballarò ha parlato della Finlandia. Invece, nella piazza di Formigli. Nella piazza di Formigli c'è un ospite che a Daniele Bellasio piace particolarmente, Aldo Busi, molto British, non abbiamo ha urlato, non abbiamo il telefono, abbiamo l'audio però, abbiamo l'audio di uno straordinario intervento a Piazza Pulita di Aldo Busi, che così ha messo a posto l'altro ospite, che era Maurizio Gasparri. Ascoltiamo. Seconda volta che lo citiamo, Cosa dovranno fare? Dovranno prendere i mercenari? Lo Stato italiano dovrà servirsi di mercenari per fermare l'orda del popolo che si ribellerà, ma in una maniera ben più grave, perché questi vogliono arrivare ai palazzi. Allora, senza violenza si dice che il potere non cambia, e io credo che sia così, no? Cioè, io non vorrei usare paroloni, ma se ci sarà, non sarà più una guerriglia, ma sarà una guerra civile, perché soltanto attraverso il male estremo probabilmente il popolo italiano avrà accesso al bene elementare, che adesso gli è stato sottratto. Gasparri. Non sono molto d'accordo, ovviamente. E ho capito, signori, che dobbiamo fare? Devo dire che sono per la violenza? Io non sono. Credo che di una prospettiva. Busi, io non l'ho interrotta, lei ha fatto un discorso che io non condivido, avrò diritto di non condividere. Ho detto che non condivido, e lei lo ha fatto in una maniera, con il suo stile, che come dire, opinabile, non ha fatto. Lei me lo invidia molto, ovviamente. No, non glielo invidio molto, guardi, non glielo invidio. Allora, anche perché io ne ho uno. Vede, io credo che in questa fase, no? Eccolo qua, lei me ne invidia molto il mio stile, anche perché io ne ho uno. Tranchant, Aldo Busi, particolarmente tranchant. Quando dice mercenari, quel tono di voce. Quanto ti piace? Mi piace molto. Ci sono delle parole abusate, guerriglia, questa settimana l'ha usata anche un politico di cui abbiamo già parlato molte volte. Come l'onorevole Brunetta. Non si dovrebbe mai dire in una trasmissione "io non l'ho interrotta", però... Però, d'altronde, che fare? Beh, in questo caso però posso dire che Gasparri aveva ragione, perché Gasparri lo stava interrompendo. E tra l'altro torna, perché anche Monti all'inizio ce l'aveva con Gasparri. Forse perché sono sempre gli stessi. Vabbè, non vogliamo essere si così cattivi. Si parlano tra loro. Hai citato Verrebbe la Finlandia? Voglia di fuggire, sì, in Finlandia. Verrebbe... È un paese stupendo. Sai che io ho il solito problema con la Finlandia, col sito di La 7, che ogni volta che guardi video parte la pubblicità della Finlandia. Sono i problemi della rete. Sì. Sì, sempre la pubblicità della Finlandia, visto che noi poi li guardiamo tantissimo, questi siti. Questi video in rete, appunto, per fabbricare il nostro RadioTube, la Finlandia. Ma è vero che Ballarò ha una fissazione per la Finlandia? Per la Finlandia. Tutte le settimane c'è un servizio su quanto si vive bene sui tram, in particolare in Finlandia. Questa settimana avrà parlato di Finlandia Ballarò? Non lo so, andiamo a controllare. Vediamo alla radio se Ballarò ha parlato di Finlandia. Con un sistema fiscale efficiente e un'evasione bassissima, in Finlandia lo Stato può offrire anche posti come questo. Questa è una casa per le associazioni dei sordi, per i parenti dei bambini sordi. Anche. Essere un paese moderno vuol dire anche potersi permettere il lusso di investire in tecnologia e innovazione. Questa è l'agenzia pubblica che aiuta le imprese ad innovarsi e a sviluppare nuove idee. Noi investiamo i soldi delle tasse dei cittadini per generare un futuro migliore per l'economia finlandese. L'anno scorso abbiamo investito 570 milioni di euro. Moderni e felici, anche tra i banchi del mercato. Sì, stiamo piuttosto bene. Posso pagare con la carta di credito qui? Sì, da 10 anni oramai, forse anche 12. Ed è così in tutti i banchi. Io vorrei rassicurare, però anche al mercato di Vimercate si può pagare con la carta di credito. No, ma poi c'è un clima da favola incredibile. Che bello. Che su Twitter si sono scatenati contro la povera Finlandia. Ma non so, ma anche contro... Sarà un paese normale, dove le persone sono normali, qualche volta dicono qualche parolaccia, hai gli incroci... Se le dicono in finlandese, perché, però c'era ospite Sallusti, sì. Quindi gli insulti sono stati rivolti un po' al ripetersi dei servizi sulla Finlandia e un po' ovviamente al povero Sallusti. Cinzia che twittava, definiva Uncle Creepy Sallusti perché aveva commentato bello il servizio sulla Finlandia, ma il paese col più alto numero di Sallusti, e qualcuno rispondeva di suicidi. di sui suicidi e diceva: certo, il più alto tasso di suicidi, isteria, e non hanno ancora visto Sallusti, ovviamente. Povero. No, davvero. No, ma un sacco di tweet, soprattutto in Finlandia non hanno Sallusti, twittava Antonio P84, è già un buon motivo per andarci. È andata avanti così tutta sera. Parliamo di Finlandia, una trasmissione dedicata alla... chissà se hanno X Factor. Chissà se hanno contro... Tra l'altro Mika è un nome... No, però Mika Altonen giocò in quella benemerita squadra di cui abbiamo parlato calcio? L'altra volta. Sì, non ne parliamo. Non so nulla. Ma Mika credo sia un nome finlandese. Sai che però lui è di origine libanese, ti stupirò. Può darsi benissimo. Adesso magari avrà anche qualcosa. Facciamo anche un fact checking sulle possibili origini finlandesi di Mika. Senti qua, vorrei andarla a vedere la Finlandia, twittava Elisabetta Grandi, se ci andassero a vivere... È piena in tutti i luoghi, in tutti i laghi, come cantava un altro... Un altro concorrente di un altro talent show. Vorrei vederla la Finlandia se ci andassero a vivere 60 milioni di italiani. Questa non è male. Sono molti meno. Questa non è male. Io, allora, abbiamo parlato di Piazza Pulita. La sauna è l'oggetto nazionale finlandese. Tutte le case hanno la... Io ho sempre invidiato questa cosa. Ti piace la casa? Beh, con la sì, sauna? Insomma, volersi bene. Ecco, abbiamo parlato di invasioni barbariche. Abbiamo parlato di In Mezz'ora. Abbiamo parlato di Piazza Pulita. Sì. Abbiamo parlato di Ballarò. Ce l'ho. Ci manca solo Santoro. Mitico Michele. Michele chi? Allora, sai chi ha incontrato questa settimana Aveva Michele attori? Santoro? Aveva attori in studio che recitavano soprattutto verbali della procura di Caltanissetta. Aveva signore che avevano prodotto fiction. No, questa volta no. Possiamo mandarla in onda anche in fascia protetta? Possiamo mandare in onda in fascia protetta questo audio che segue, perché in realtà è una seduta psicanalitica fatta a Michele Santoro da un personaggio particolarmente noto in rete che risponde al nome di Pinuccio, che a te piace particolarmente. Sì, sì, uno dei nuovi comici della rete. Sentiamo la seduta psicanalitica di Michele Santoro fatta da Pinuccio. Michele, stai sdraiato qua, non lasci le scarpe, non ti preoccupare. Adesso chiudi gli occhi, facciamo un po' di psicanalisi, perché dobbiamo capire perché tu ogni volta parli sempre di Silvio Berlusconi, poi lui sta per cadere, tu gli fai un altro poco la campagna elettorale. Vabbè, questo è un altro discorso. Chiudi gli occhi. Come ti chiami? Silvio Berlusconi. Vabbè. Dove sei nato? Ad Arcore. No, vabbè, Sabino, questo è andato proprio. Vabbè, il tuo miglior amico giornalista chi è? Giuliano Ferrara. Vabbè. Che sono i tuoi sogni erotici? Che chi sogni? Cosa? Berlusconi, in tuta, pimpante. Che cosa fate? Uno show, una cosa veramente indimenticabile. Facciamo altre domande. La mattina ti svegli, no? E a chi chiami? Pronto, Galliani, ma vi rendete conto che il problema del Milan è il centravanti e il terzino che non fluidifica? Un'altra persona che chiami? Pronto, Boncompagni, quella ragazza in terza fila la devi cambiare, quella non è la Rai, perché... Guarda, secondo me stai male proprio, eh. Ma lei è comunista? Ma che c'entra questa cosa? Sabino, qual è la diagnosi a questo? Che se ne può andare pure in pensione. Sì, prendi un po' di riposo, senti a me, dai, che hai fatto il tempo tuo. È decisamente il momento dei baresi, perché questo Pinuccio... Pinuccio sono, faccio il faccendiere, da quando mi sono sposato sono entrato nelle grazie di mia suocera. Se qualcuno non fosse un grande frequentatore della rete, noi consigliamo pinuccio.tv e trovano tutti i video di Tra Pinuccio. Tra l'altro Pinuccio ha la stessa montatura di Marta Cagnola. È vero. Siamo tutte e due un po' hipster. Pinuccio straordinario. Ricordiamo che però questa settimana, la settimana che sta per arrivare, sarà la settimana di Checco Zalone, perché esce il suo film e non ce ne sarà più per nessuno. Ecco, e tu sai tutto di Checco Zalone, sei la più grande esperta mondiale. Io credo. Sono piuttosto fan di Checco Zalone, mi sta un sacco simpatico. E cosa dice la precritica del film? A me hanno parlato già molto bene del film, però io lo vedrò martedì mattina. Guarda, ti manderò un SMS non appena uscirò dalla proiezione. Ma una ti volta dirò portami. Com'è. Ti porto a vedere Checco Zalone, e a febbraio ti porterò a Sanremo, visto che anche da, a Sanremo. Già te l'ho minacciato, quello sarà veramente bello. Faremo un radiotube da Sanremo. Da Mika a Sanremo? Mika a Sanremo non sarebbe male, bisognerebbe fare l'appello. Ma canta Mika anche in italiano, Sanremo? Beh, parla un italiano bellissimo, potrebbe anche cantare in italiano. Sì. Potrebbe essere un'ottima idea, tanto X Factor sarà finito per febbraio, ma possiamo anche lanciare l'idea Mika Sanremo. Io vorrei però rimanere sul tema non tanto di Mica quanto il tema di Bari, perché c'è un'altra chicca che hai scovato tu che riguarda sempre Bari. Secondo me la capiranno soprattutto a Bari, però io non la farei ascoltare subito. Terrei questa suspense soprattutto per gli ascoltatori pugliesi e per i pugliesi speaking, perché c'è una cosa molto carina che riguarda uno spot e soprattutto qualcosa di cui si parla molto in rete. Non ne parlerei adesso, ne parleremo tra qualche minuto. No, mandiamo lo spot della Finlandia. Parliamo alla Finlandia, basta Finlandia. Ci ritroviamo tra poco per non parlare di Finlandia, dove comunque io andrei volentieri. Io sono stato. Andiamo in Finlandia. RadioTube. La seconda parte, la seconda mezz'ora del nostro RadioTube, ancora ai microfoni di Radio 24, Marta Cagnola e Daniele Bellasio, anzi dovrei dire prima Daniele Bellasio e poi Marta Cagnola perché sono una signorina educata. Ci sono anche i nostri account di Twitter, se qualcuno volesse trovarci. Esatto, sarebbero @MartaCagnola, @DiBellasio e poi con l'hashtag RadioTube. Sempre il gesto con le mani che non vede nessuno perché siamo alla radio. Abbiamo parlato di un comico in rete che a me piace molto, che si è già visto un pochino in TV, potrebbe fare qualcosa di più, il nostro Pinuccio, l'abbiamo appena ascoltato, ma c'è ancora qualcosa che arriva da Bari ed è uno spot pubblicitario che tu hai scovato in rete. No, perché mi piace molto questa cosa del tu per me sarai sempre Marta, no? Sembrano un po' funebri però quei manifesti che si trovano in giro. Lo spot però... TV è carino, però i manifesti mi sembrano un tu po'. Tu per me sarei sempre Pasquale. A me piace molto la faccia di Pasquale, che poi è Linus, giusto? Esatto. E anche Virginio, che poi è Gerry Scotti. Ebbene sì. Il fotografo deve essere tosto perché l'immagine è bella. Tu dici che però danno una sensazione di... Non lo so, forse però non vedi il tuo volto, tu per noi sarai sempre Marta. Ma lo vedo un po' con orrore in realtà, lo vedo un po' con orrore. Tra l'altro in rete c'è qualcuno che fa questo gioco con noi. Sì, c'è qualcuno. Com'è? @MacMac? Adesso lo andiamo a trovare, il nostro io me li dimentico sempre gli però account. Questo fenomeno di parlare, di fare la pubblicità personalizzata, perché ormai se una cosa non è personalizzata non esiste, no? Beh, ha cominciato una nota, notissima bibita, tutti a comprare. Come direbbe sempre Vasco, con le bollicine. Con tutte quelle bollicine, tutti a correre a comprare la bottiglia col nome giusto. Adesso Marta sul tube, Daniele Bellazio. Adesso tocca alla famosa crema al cioccolato con uno spot che i baresi capiranno, secondo me, alla perfezione. Sei nato Stefano, poi è nata la tua sorellina e sei diventato... Usce! Sei andato a scuola, dove per tutti eri... Capodocchiume! Ma per lui eri... Biggie Mock! Poi sei diventato... Uè, cretino! Quindi... Passera! E dopo qualche anno... Aiutata! Hai cominciato a lavorare e ti hanno detto... Wakakio! Il giovedì sera ti dicono... Vatte! Ma subito dopo... Ti hanno chiesto... Cioè? Ti hanno chiamato... Capo! E ti hanno detto... Ma fai moco un peggiore di me! Anche se al lavoro sei diventato un... E a casa... Papà! Per noi rimarrai sempre un tramon. Bravo sto tramon, bravo! C'è Roberto Scaltritti in regia che ride, quindi non so se è di origine barese, però ha capito lo spot. Probabilmente sono state dette delle cose per cui questa è l'ultima puntata. Ma solo sul territorio pugliese. L'hanno capite? No, ma magari non verremo più diffusi. Ah, ok, verremo tolti solo lì. Tolti solo dal territorio pugliese. Ma dai, veniamo pugliese. Alla ciccia della puntata. Veniamo allora, alla ciccia della puntata. La ciccia della puntata è che adesso io intervisto... per le prossime 2 o 3 ore, quindi palinsesto è tutto cancellato, Marta Cagnola su X Factor, primo atto importantissimo con i successi. Adesso devi... Allora, come è andato? Esordio. È andato benissimo, gli ascolti sono stati clamorosi, perché ha fatto veramente degli ascolti da rete... generalista e non pay, e io me lo aspettavo abbastanza, una macchina molto complessa, perché addirittura hanno costruito un teatro apposta, una macchina complessa e tutta nuova perché è cambiata la casa di produzione, quindi insomma era faticosa questa puntata, loro se la sono cavata molto bene. I giudici sono stati bravi, il conduttore è stato bravo, i concorrenti sono stati bravi e c'era soprattutto il nostro preferito, che Mica. È Mica, hashtag Mica Pizza e Fichi, che Mica Pizza e Fichi Mica, sull'esibizione di uno dei concorrenti, su una bellissima canzone di Ivano Fossati, ha dato a tutti una grande lezione, niente meno che di lingua italiana. Non so se tu l'hai sentito, lo faccio riascoltare, anzi lo faccio rivedere alla radio a tutti. Mica! Michele, non so che dire, secondo me questa performance è stata incredibile, ne ho adorato, no, ho adorato anche, e penso che veramente ho adorato, è una performance strana, molto originale, completamente diversa, non aspettavo questo, veramente non aspettavo, ma Dio, Morgan, tu hai scelto la canzone, la più difficile delle canzoni con le parole per me. Se non avessi studiato il congiuntivo, non avrei potuto capire una parola di questa canzone. Sì, molto bene. Tra le altre cose, complimenti a Mica, hai fatto un'infilata, congiuntivo condizionale, da grande professionista. Da grandissimo professionista. È raro vedere. In quanti ce l'avrebbero fatta nella molto televisione bene. Italiana? Lui molto è veramente bravo, eh? Molto bravo. Una molto lezione di italiano che, ragazzi, molto simpatica, soprattutto nel modo migliore l'ha fatto. Beh, con classe, con... Sì. Ci piace. Ma qual è molto il segreto di questo X Factor? Che non soffre. Ma tutti, la stanchezza del talent non è ancora arrivata. La stanchezza talk del talent non è morto, ancora arrivata. In Italia, se non altro, c'è stata la fortuna di aver cambiato completamente il canale, la modalità, quindi tutto nuovo. Sono riusciti a trovare, secondo me, dei giudici che funzionano molto bene, con degli aggiustamenti non particolarmente traumatici tra una edizione e l'altra, perché i cambiamenti ci sono stati, però così cos'ha. Quest'anno quattro giudici, di cui uno solo nuovo, quindi il clamoroso Mica, che ha preso il posto di Arisa, gli altri sono gli stessi dell'anno scorso, però pare che si siano amalgamati. Elio Elio, Simona Ventura. Il conduttore scompare. Il conduttore un po' scompare, il che conduttore è un merito, no? Nei talent che non siano amici, perché ha una formula completamente diversa e molto italiana, è un conduttore al servizio del talent, non è un conduttore che si personaggio. Si chiama Alessandro Cattelan. Alessandro Cattelan. Che è quello della del famoso dito davanti a... Non è neanche parente, non però è il dito c'era, l'hanno messo sul palco, hanno fatto questa citazione cognomistica. Abbiamo parlato dei giudici. Ma adesso andrei a tutte le puntate? Andrò spesso, perché mi diverto, perché mi piace, perché è giusto però vederlo. Però un segreto da raccontacelo, noi che non eravamo dietro le quinte. Pensa che io mi guardo, non solo mi guardo le puntate, ma poi me le registro anche, torno a casa e guardo anche l'effetto che hanno fatto in televisione. Questo subito sì. Dopo essere stata lì? Beh, a volte sì, no, il giorno dopo. Perché non ti rendi conto di come sono, altrimenti, se le vedi dallo studio. Siamo nella sociologia, stiamo male. Invertite le parti. Abbiamo parlato dei giudici, abbiamo parlato di Simona Ventura, abbiamo parlato di Elio, abbiamo parlato appunto di Mica, hashtag Mica Pizze Fichi. Morgan però invece si è un po' arrabbiato. Si è arrabbiato tantissimo. Perché hanno eliminato il suo concorrente. C'è un minimo di concorrenza tra Mica e Morgan? Ma tra Mica e Morgan sono amici, anzi Morgan ha annunciato che vuole collaborare con Mica. In realtà la cosa tremenda è che Morgan si è arrabbiato tantissimo per l'eliminazione del suo concorrente, davvero tanto, e nella sorta di dopo festival che c'è in X Factor, che è l'Extra Factor, che è l'Ypsilon Factor, dovremmo suggerirglielo, chiamarlo l'Ypsilon Factor. Morgan si è arrabbiato moltissimo, il conduttore Matteo Bordone non riusciva a tenerlo a bada perché è impazzito. Ah, perché cambia il conduttore. E cambia il conduttore. In questo audio che abbiamo scelto ci sono due aspetti. Uno, la presa in giro della social TV da parte finalmente di uno dei comici, ma magari non so se definirlo comico è proprio comunque uno dei protagonisti dell'Extra Factor, che è Rocco Tanica, di Le Storie Tese, e appunto un po' di follia di Morgan. Sentiamoli insieme. Roba da querela? No, siamo stati Radio Belva? Siamo... Che nostalgia. Potrebbe sarebbe un ospite perfetto. Che meraviglia. Un ospite perfetto per Radio Bella. Dio, che nostalgia. Vabbè, ascoltiamo questo estratto dall'Extra Factor. Sì, Matteo, un cordiale bentornati a questo pezzettino di Extra Factor. Come tu giustamente dicevi, sono qui per introdurre i cosiddetti social media alternativi e quindi in questo caso parliamo della voce, questa novità dall'America. La voce è questo mezzo che se tu gridavi forte noi ti sentivamo. Poi ci sono gli animali addestrati, il piccione e i cani addestrati, e poi c'è il prestigioso telefax come l'anno scorso, ma la novità di quest'anno è la lettera. Potete mettervi in comunicazione con noi scrivendoci la lettera a questo indirizzo. Ecco, vedete il contributo dalla regia, l'elegante foglio e la filiforme penna. Quindi se volete scriverci, noi aspettiamo le vostre lettere a questo indirizzo: Extra Factor presso X Factor presso Sky Milano Italia Unione Europea Mondo Via Lattea Universo. A te ancora di nuovo la linea, Matteo. Quanto peace mi piacerebbe tu te la fossi tenuta, nel senso che è abbastanza complicato gestire questi tre e anche questi quattro. Sì, scrivete allo sfottone.it che se volete. Si può dire anche di Abbiamo Senofonte, Marco, si può dire anche di Senofonte, si chiama ironia e c'è da millenni. Si può dire anche di Senofonte. Capito cosa stava succedendo? Straordinario, dei grandissimi momenti. Si menavano. L'indirizzo non era in Finlandia. L'indirizzo non era in Finlandia, ma io sto già preparando le valigie perché io voglio andare in Finlandia. Domani parto per la Finlandia. Pensa cosa twittava Andrea Scrosati, chiocciola Andrea Scrosati. Ieri 122.000 tweet con hashtag XF7, puntata più twittata di sempre, 5 volte il primo live dell'anno scorso. E insomma la fonte Scrosati, è certa. Perché, di Sky. Esatto, la fonte è certa perché vertice di Sky, quindi insomma non male, tutti a perdere tempo a fare i tweet, anch'io perché è particolarmente divertente. Com'era quindi, l'hashtag di XF7? XF7, perché ogni tanto non si capiscono, io sono per semplificare un po' gli hashtag, uno si connette improvvisamente, trova delle sigle che sembrano dei codici fiscali, anche un po' di sovraimpressione, sì. No, ma loro lo fanno, loro sono molto attenti, talmente attenti appunto da aver dedicato molto spazio al concetto di social TV con la conseguente presa in giro legittima di Rocco Tanica. Quindi direi che per la questa parola, settimana siamo a posto. Per questa siamo settimana sistemati. Abbiamo parlato convenientemente di X Factor. Io intanto ho fatto il fact checking su Mika, che in realtà sarebbe scritto con la C e non con la K, ma ha cambiato grafia perché altrimenti tutti gli chiedevano come si pronunciava. E poi perché voleva essere finlandese, no? E poi perché voleva essere finlandese. Ecco, ma tu lì l'hai visto bene da vicino? Io ho anche avuto l'occasione di incontrarlo e di intervistarlo un paio di volte e posso dirti che siamo tutte e tutti donne, uomini, bambini innamorati persi di Mika. Ai bambini piace moltissimo la musica, la musicalità. E lui è straordinario, è un personaggio straordinario. E pensa che lui ha detto che, allora, i suoi fratelli e sorelle si chiamano Fortuné, poi Allegra, Yasmin, Paloma, e lui è Mika, e però gli altri hanno tutti un significato, e lui si è chiesto: ma perché Mika, il mio nome è Mika? E lui dice che in marocchino significa sacchetto di plastica. E quindi ma che tristezza, scusami, ma gli altri hanno dei nomi stupendi. Ma è simpatico. Che poi Mika a Milano è quel Mika, no? Mika pizza e fichi, e a noi Mika piace così. Tra l'altro il nostro twittatore corteggiatore via Twitter, che ci invia un sacco di foto molto carine e molto trasformate da lui, è chiocciola Mac Felippis, perché io mi dimentico sempre gli account, i nomi degli account per bene. MC Felippis, che ricorda Mackenzie. McKenzie McHale. Ci avviciniamo all'ultimo blocco. Che bello, come se McKenzie non fosse fatto tutto apposta. Ma sì, dai, poi parliamo di Mackenzie McHale e Will McAvoy. Tutti con la Mac. Anche se le hanno prese da X Factor. Chissà chi ha già capito di cosa parliamo. Ne parliamo tra qualche istante, perché adesso tutti quelli che sono in viaggio, e a quest'ora ce ne sono, hanno bisogno di sapere come sta andando la situazione su strade e autostrade. Ma X Traffic, ci sentiamo dopo. Radio Tube. Gli ultimi minuti del nostro RadioTube insieme per... sì, ma il tempo vola quando ci si diverte. Speriamo che si divertano anche là, dall'altra parte, dello schermo della radio. A X Factor. Sicuramente si sono divertiti di più a scacchiare ai tre questa settimana, secondo me. Ma poveri, se uno fa una scelta di qualità... Di qualità, viene massacrato da X Factor. Certo, però, insomma, ci sono passeggeri per tutti i treni. E io... Questa è bella, aspetta, me la segno. Passeggeri per tutti i treni. Io il treno, l'abbinata Scandal Newsroom, è un'ottima serata televisiva. Molto bene con Scandal prima. Ma a me sono piaciute tutte e due. Cioè, io sono serie che ho adorato. Sono Scandal Addicted. Io sono Newsroom Addicted. E ci dividiamo sempre a un certo punto. Però c'è un piccolo problema. Perché non le abbiamo già viste integralmente? Chissà come mai tu le hai viste integralmente perché sei una secchiona. Io le so a memoria. A spizziche bocconi da amici, così cerco di starti dietro. Ma se gli ascoltatori non avessero visto Scandalo Newsroom, facciamo una cosa. Ascoltiamo un pezzettino di The Newsroom, Tieniti Forte, in italiano. Questo è un nuovo programma e ci sono nuove regole. Sono tutti giovanissimi. Ancora non sanno fare male un notiziario. Non sanno proprio farlo. Avevi detto che era fuori? Sarà tornato prima. Oddio, non crederai. Sono cose che a me non capitano! Quello che è successo è solo colpa mia, non licenzi nessuno. Non l'hai fatta venire per raddrizzare il tiro, ma per dare una svolta. Hai avuto le mie mail? Sì. Cosa hai pensato? Non le ho lette. Will, non mi parlare se non è assolutamente necessario. È assolutamente necessario. Vuoi spostare il BlackBerry dalla scrivania? Oh! Bentornato, Will. Bentornato Will McAvoy, grande giornalista americano con la sua executive producer Mackenzie McHale. Poi si amano, è una serie bellissima, si odiano, fanno pace. Ma perché The Newsroom in Italia non funziona? Io sai a chi lo chiederei? Lo chiederei a Maria Rosa Mancuso, critico cinematografico del Foglio. Buonasera Maria Rosa. Buonasera. Perché allora The Newsroom e Scandal, manco quello, non funzionano in Italia? Manco Scandal. Ma sono stati massacrati da X Factor, perché non funzionano Maria Rosa? Perché la televisione è fatta di numeri più grandi di quelli che possono fare Scandal e Newsroom in Italia. Ed è anche fatta per spettatori che non sono necessariamente interessati a quello che piace a noi giornalisti, cioè sapere come lavorano i giornalisti americani. E vorrei aggiungere un altro motivo: il doppiaggio non mi è sembrato dei migliori, mi è sembrato un po' aulico. Chiunque abbia frequentato una redazione sa che non si dice "hai avuto le mie mail", non siamo mica in un romanzo dell'Ottocento. Che meraviglia! No, noi un po' qua a Radio 24 così siamo un po' con No, mi sa di no. No, è che alla radio gli errori del doppiaggio si notano di meno. Di meno, non lo so, noi che l'abbiamo messo in inglese, a me personalmente sembra un po' strano. Il problema è che il ritmo, ma almeno, intanto mettiamo le cose in chiaro, Sorkin lo salviamo, no Maria Rosa? Anche in The Newsroom. Ma certo che lo salviamo, anche in The Newsroom, però di nuovo a noi diverte vedere come arriva la prima notizia e poi si decide di spararla, non si decide di spararla, come gli americani controllano le notizie, come noi non le controlliamo, ma davvero è un discorso fatto tra noi giornalisti e forse c'è un altro problema, cercando di dirlo senza... insomma farsi arrestare per favoreggiamento. Molte persone, la maggior parte delle persone interessate, questa serie l'avevano già vista, queste due serie l'avevano già viste. Ai noi, sì, non diciamo come, dove, perché potrebbe arrivare Comunque penso che esperimenti di questo tipo, e per questo che Vianello, mi sembra che abbia fatto Andrea Vianello, il direttore di Rai 3, una buona scelta, coraggiosa. A me piacciono anche doppiati, o meglio sdoppiati, visto che il doppiaggio è molto preso di mira. E soprattutto c'è l'idea che non è detto che il telespettatore sia una persona sopra i 50 anni. Allora, abbiamo salvato Sorkin, abbiamo salvato in parte Andrea Vianello. E adesso Giubbotte. Adesso Giubbotte. Io vi farei subito ascoltare un breve video perché ne abbiamo per qualcuno. Ci stiamo per fare dei nuovi amici. Salve, sono Gabriele Salvatores ed è tanti anni che sto lì, dietro la macchina da presa. Ed è per questo che mi piacerebbe che per un giorno foste voi a prendere il mio posto. Il 26 ottobre in particolare. Filmate la vostra giornata, una parte importante di questa giornata. Filmate quello che vi suggerisce il vostro cuore o quello che vedete. Abbiamo pensato a delle domande che potrebbero aiutarvi, darvi una suggestione o un punto di partenza per decidere che cosa filmare quel 26 ottobre. Che cosa ami? Di che cosa hai paura? In che cosa credi? Qual è la tua Italia? Questi sono solo esempi. Noi accettiamo tutte le risposte. Italy in a Day, insomma, questo era il fine settimana in cui tutti ormai a quest'ora hanno già mandato i loro video per raccontare l'Italia. Io però questa cosa l'ho già un po' sentita, Daniele, Maria Rosa, mi suona un po'. Ma certo che si era sentita, l'aveva già fatto Ridley Scott, si chiamava Life in a Day. Era stata fatta anche poi in Gran Bretagna, non è affatto un'idea nuova, non è neanche un'idea di questi decenni, diciamo, e neanche di questo secolo, perché era già stata fatta in un film che si è dedicato a Berlino, si chiamava Sinfonia di una città, però c'era un signor regista. Quello che non mi piace di questo spot è il cumulo di retorica. A un certo punto Salvatore dice: accendete la telecamera e accendete il vostro cuore. No, magari imparate a fare dei film. Beh, questa è bellissima. Io, cioè, tu hai tenuto Salvatores e Maria Rosa Mancuso l'ha menato. Ma è giusto così. Ma dopo Marrakech Express io sono molto affezionato. Va bene, è vero che lo spot è inquietante nella sua retorica, però l'esperimento non è detto, magari poi viene fatto in un modo per cui può divertire. C'è da dire che, come si chiama? Vine. Non è che a parte i primi 3-4 giorni, no, gli italiani non sono vin... Ma poi sai cosa c'è? Quando ha cominciato a prendere piede, noi abbiamo cominciato ad avere video anche su Instagram, e lì Instagram ha sparigliato tutti. Il problema, Maria Rosa, è che forse qualunque esperimento diventa istituzionale in Italia. In Italia qualunque esperimento diventa istituzionale, ma soprattutto io non amo gli esperimenti e questa retorica delle cose che partono dal basso. Uno si fa tu fare vuoi che partano da un dall'alto? No, voglio che chi sa fare le cose le faccia, perché di filmini di famiglia ne abbiamo già abbastanza, di diapositive delle vacanze ne abbiamo già abbastanza, ne avevamo già abbastanza. Il fatto che siano su internet non le migliora, sono cose che in genere interessano chi li ha fatti e gli stretti familiari, e se ci fate caso in ogni fotografia, quando viene commentata su internet o fuori da internet, c'è sempre qualcuno che dice: e poi là dietro c'era una cosa bellissima, e vabbè, allora perché mi fai vedere questo? Come quando ti invitano a casa a vedere le diapositive di un viaggio. Uguale. Che strazio, di un viaggio in Finlandia. Io praticamente ho le valigie pronte. Io, infatti, ma guarda, Salvatore adesso... come regista piace o no a Maria Rosa? Però a me non piace, confesso che non mi piace neanche confesso un film, Salvi, che ha sempre questo lato, diciamo così, amichevole, così democratico, così due amici, una chitarra. Allora, dici un nome. Finello che a me non piace. Un esperimento di questo tipo, secondo te, il regista giusto, chi sarebbe stato? Il regista giusto probabilmente non avrebbe fatto questo film, avrebbe fatto un film bellissimo come quello che è stato un successo al Festival di Toronto, che si chiama Noah, l'hanno fatto due canadesi di cui non ricordo il nome, ed è un meraviglioso film di 17 minuti che racconta una storia di fine di un amore e di tradimenti, e non esce mai dallo schermo del computer, è stupendo. E quindi anche in questa puntata ci siamo fatti un sacco di amici, ma purtroppo ce li siamo fatti tutti in Canada e in Finlandia. In Italia, sì, esatto, neanche fuggiremo uno. In Finlandia. Fuggiremo. Grazie a Maria Rosa Mancuso, che grande. Io voglio, la voglio praticamente sempre a RadioTube. Et Maria Rosa Mancuso, no? No, lei non. La convinceremo. La convinceremo a manifestarsi su Twitter. Grazie Maria Rosa Mancuso. Grazie a voi, ci hanno provato in tanti, resisto. Resisto, sono convinta, resisterà. Noi invece non resistiamo più, perché è finito il tempo a nostra disposizione. Come passa veloce quando ci si diverte. Allora, siamo al momento dei saluti. Sandro Maier, dobbiamo salutare. Salutiamo Sandro Maier, Mica Pizza e Fichi, l'ambasciatore finlandese in Italia. e tutto l'ufficio del turismo finlandese, le mie valigie pronte per la Finlandia. Ricordiamo i nostri account: chiocciola Marta Cagnola, chiocciola Di Bellasio se avete Twitter, yes, e anche l'hashtag RadioTube. Per questa settimana finisce qui e ci ritroviamo, forse, sempre forse, la prossima settimana. Ciao.